Grazie di esistere. Grazie di esistere. Grazie per la compagnia. Grazie per l'info. Buongiorno, grazie e vi ringrazio per la vostra cortesia e il vostro savoir-faire. E grazie, grazie di esserci. Grazie di esistere. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. 1 agosto 2014, venerdì, speriamo in un weekend di sole che possa rimetterci di buon umore dopo tanto maltempo. Certo che tutto avremmo immaginato, tranne che di tornare a parlare di risparmio tradito. Un concetto coniato agli inizi del 2000, quando si susseguirono tre grandi crack finanziari che hanno bruciato miliardi di risparmi di molti italiani. Parliamo dei casi Parmalat, Cirio e Argentina, i più grandi, ma ci furono anche tanti altri casi minori. E noi pensavamo che mai e poi mai avremmo dovuto riaprire queste, chiamiamole, vecchie ferite, sì. Deborah. E invece eccoci qua a rispolverare un triste tango. E sì, cara la mia Nicoletta, riapriamo il caso Argentina, anche se molti diranno, se sono in bancarotta di nuovo, come leggiamo da tutti i giornali, chi se ne importa, saranno affari loro. Invece si riapre una ferita per migliaia di italiani che in passato avevano sottoscritto per i loro risparmi obbligazioni argentine, quelle andate in default nel 2001 e poi rinegoziate con il governo argentino una prima volta nel 2005 e poi nel 2010. Siccome un paio di hedge fund sono fondi investimento avvoltoi, come li definiscono in gergo finanziario, hanno contestato queste due pregresse ristrutturazioni, un giudice americano, Thomas Griesa, ha dato loro ragione. Eh sì, però poi il ministro argentino dell'economia ha trattato per due giorni interi con questi fondi di investimento, qualcuno li ha chiamati fondi ribelli, è vero? Vero? È vero. Però insomma non ce l'ha fatta, nessun risultato. Tecnicamente ieri mattina alle 6 ore italiana era scattata una nuova bancarotta. La questione è piuttosto complessa, vale la pena riprenderla perché, come dicevamo, si sono risvegliate molte ansie. Volevo ricordare qualche cifra: quando scattò la bancarotta del 2001 da 81 miliardi di dollari furono coinvolti 450.000 risparmiatori italiani che poi scelsero strade diverse per tentare di recuperare quanto perso. Ci fu chi aderì a queste ristrutturazioni del governo argentino, chi scelse invece l'arbitrato internazionale portato avanti dalla task force guidata da Nicola Stock, un arbitrato di cui si dovrebbe sapere qualcosa entro pochi mesi, chi invece fece causa alla banca sollevando la questione di un investimento mal suggerito. E allora perché le novità delle ultime ore interessano anche gli italiani? Questo c'è da chiedercelo, no? Cosa è successo allora esattamente a New York? E come mai la situazione è precipitata in queste ultime ore, tanto da concretizzare la seconda bancarotta in 13 anni? Ti dirò di più, perché stamattina l'Economist ricordava come si tratti invece dell'ottavo default della storia argentina. Sono proprio degli esperti in materia. Peccato, potevamo fare il domandone, mannaggia. Vero? Allora, io mentre io presento gli ospiti, tu pensane ad un altro? Sì. Ok? Mi concentrerò. Concentrati un attimo. Io saluto Claudia Segre, esperta di mercati emergenti, direttore della lettera Sion Forex. Buongiorno. Buongiorno. Dottoressa, buongiorno a lei. Eccoci qua. Fra un po' ci collegheremo anche con Alessandro Pedone, consulente finanziario indipendente, oltre che responsabile di tutta l'area risparmio dell'Associazione dei consumatori ADUC, che ci spiegherà bene a questo punto che situazione nuova si prospetta per i risparmiatori italiani. E quindi, mano alla cornetta. 800 24 00 24, noi vi aspettiamo. Potete mandarci anche i messaggi al 349 238 6666, esatto, che io sto cercando di aprire, ma che tu, Deborah, hai sotto mano. Esatto. Potete come sempre seguirci su Facebook e su Twitter. E potete prepararvi anche al secondo argomento che affronteremo nel corso della nostra trasmissione, nella seconda parte del programma. Infatti cambieremo decisamente pagina e voleremo, meglio pedaleremo su altre strade. E dopo il successo di Nibali al Tour, la passione per le due ruote vive una seconda giovinezza, un ritorno di fiamma per un mezzo ecologico, ma non solo. Infatti ci sono tante buone ragioni per iniziare a pedalare, ne abbiamo parlato tante volte, torniamo a farlo oggi. Per spostarsi da un luogo all'altro, per rimettersi in forma, per divertirsi, per perdere peso, per viaggiare e anche pensare. Infatti il pedale, insomma, aiuta. Molte idee proprio sono nate sulle due ruote. Se pedalando avete trovato una soluzione, vi si è accesa improvvisamente una lampadina, è nato un amore, chissà mai. Oppure avete preso quella decisione che vi ha cambiato la vita, 800 24 00 24, lo stesso numero verde che vi invitiamo per parlare dell'Argentina. 349 238 6666. Astor Piazzolla in tutte le salse questa mattina. Allora, dottoressa Segre, ci spiega in sintesi perché si fosse perso i giornali di questi giorni e fa fatica un po' a recuperare le fila di questa vicenda che è piuttosto lunga ed articolata. Ci spiega perché siamo arrivati a questo default tecnico scattato nelle ultime ore, perché va sicuramente ricordato che per fortuna non è intanto così drammatico come quello del 2001. In questo caso scatta perché questo giudice americano, Griesa, impedisce all'Argentina di versare i soldi che ha per rimborsare una tranche di interessi su obbligazioni per 13 miliardi scadute da qualche settimana e che questi interessi avrebbero dovuto essere messi in pagamento l'altro ieri. C'è molta confusione proprio perché tecnicamente non è proprio una bancarotta. Ma infatti assolutamente stiamo parlando di una situazione assolutamente anomala, in quanto i soldi che l'Argentina aveva depositata per il pagamento delle cedole che avrebbero evitato lo scattare di questo default tecnico sono stati congelati da questo giudice, che non è un giudice qualunque perché è il giudice famoso del caso Sindona, proprio per tutelare quegli fondi speculativi che grazie a una sentenza definitiva avrebbero, secondo la giurisdizione americana, diritto evidentemente ad un rimborso, non avendo aderito alla ristrutturazione del debito, avendo appunto richiesto una sentenza da parte di una legislazione americana. Il paradosso è ovviamente che questa sentenza inficia il rischio sovrano di un altro paese, che è l'Argentina, e da qui l'anomalia. Allora, sono 539 milioni di dollari che quindi l'Argentina teoricamente ha, li ha depositati presso una banca americana, potrebbe ovviamente utilizzarli per pagare le cedole su queste obbligazioni, come abbiamo detto. Griesa li ha congelati perché ha dato ragione appunto a questi fondi speculativi che hanno contestato il concambio del primo default. Mamma mia che mal di testa! E comunque con questo mancato accordo la terza economia dell'America Latina non è più in grado, per qualcuno la seconda, per qualcuno la terza, poi la dottoressa Segre a questo proposito sarà più precisa, non è più in grado di adempiere ai suoi obblighi di rimborso. Fra l'altro, dottoressa Segre, l'agenzia di rating Standard & Poor's, che già in molti ascoltatori ricontestano per i loro comportamenti pregressi, aveva già messo il paese in default selettivo. Che cosa vuol dire questo giudizio? Allora, questo giudizio, al quale si è aggiunto anche Fitch proprio ieri sera, vuol dire semplicemente che secondo la metodologia di calcolo del rating di queste case, quando manca il pagamento di una cedola, di un titolo, e anche nel periodo di grazia successivo di 30 giorni questo pagamento non avviene, scatta immediatamente questa misura di preallerta sull'eventuale fallimento del paese, che deve essere poi, per così dire, conclamato dai giudizi degli organi preposti, che sono l'ISDA per quanto riguarda la contrattualistica dei derivati e CEMTA, che è l'associazione degli emergenti per la trattazione dei titoli che rimangono sul mercato. Quindi diciamo che adesso un po' le trattative comunque continuano, no? Perché non è che il ministro dell'economia argentino ha mollato la presa e non intende riprendere la discussione con questi due fondi di investimento, che lo ricordiamo si chiamano NML Capital e Surelius. Sì, ecco, su questo io vorrei precisare una cosa. Questi due fondi fanno parte dell'Elliott Management, che è in mano a Paul Singer. Sì. Quindi si tratta di fondi avvoltoi nel senso che il loro scopo, come è stato fatto col Perù nel 98 e col Congo nel 2012 e col sequestro, il tentativo di sequestro della nave argentina in Ghana sempre nel 2012, sono fondi che hanno come scopo comprare debito in sofferenza, scommettere o sul recupero dell'ultima ora oppure su cause legali che vengono portate avanti fino all'estremo per poterci guadagnare. Quindi purtroppo stiamo parlando veramente di una situazione al limite dell'etica e di quell'impianto che ci siamo dati per cercare di uscire dalla infatti crisi. Singer è proprio quello che ha fatto, comprò le obbligazioni argentine all'indomani del default, quando queste avevano praticamente perso quasi tutto il loro valore, proprio con l'obiettivo di scatenare poi la situazione nella quale ci troviamo oggi, Segre. Assolutamente, quindi anche da un punto di vista etico c'è da chiedersi, qui non parliamo di un investitore finale che si è trovato intrappolato come gli investitori italiani in una situazione che è sfuggita di mano, qui stiamo parlando di investitori coscienti, professionali che scientemente sono andati a cercare la guerra legale. Riepilogando un po' la vicenda dalla quale arriviamo, appunto, questi due hedge fund hanno rifiutato in maniera scientifica di aderire alla vecchia ristrutturazione del debito per poi scatenare, come dicevamo, la situazione nella quale ci troviamo oggi. Questa vecchia ristrutturazione, alla quale aderirono anche molti italiani, assegnò ai creditori nuovi titoli con perdite fino al 70% rispetto all'investimento iniziale. Lo segnala anche Giuseppe su Facebook, che proprio ieri ci ha scritto: avendoci già rimesso il 70%, per me non cambia nulla. Non dovrebbe cambiare nulla. Questo concambio, appunto, è stato accettato negli anni passati dal 90% dei creditori su scala mondiale, fra cui questi 400.000 italiani. Dal suo punto di vista, poi lo chiederemo ad Alessandro Pedone, ma dottoressa Segre, che scenario nuovo si riapre? Allora, il discorso è che nel momento in cui hanno aderito praticamente il 93%, per un 1% che non ha aderito, rimettere in gioco e far sostanzialmente pagare anche a quel 93% con la sospensione del pagamento delle cedole una situazione che viene causata da un paese al di fuori di quello che è nella situazione di fallimento, ripeto, è assolutamente anomala e si procederanno a ulteriori trattative. Come ha detto il ministro, è stato proposto ai fondi avvoltoi un accordo similare a quello passato, che vorrebbe dire più 300% di performance, e che hanno rifiutato. Quindi si riapre le nuove trattative da qui a dicembre, quando scaderà la famosa clausola RUF, e quindi non sarà più possibile per chi ha in ballo delle cause sui debito strutturato, quindi di fare ulteriori richieste. Ecco, c'è anche appunto questa clausola, come lei diceva, richiamata questa mattina da molti giornali. Allora, adesso entreremo nel merito della situazione singola degli ascoltatori che ancora hanno questa, come dire, ferita aperta, Nicoletta. Sì, che ancora sanguina. Eh sì, infatti, come per esempio succede a Maria Gabriella, che ci chiama da Varese all'800240024. Maria Gabriella, buongiorno. Comunque, e benvenuta. Non Varese, buongiorno. Da dove? Arese, senza la V. Ah, da Arese. Arese. Romeo, lo conosciamo bene. L'hanno trasferita d'ufficio a Varese. Lei non lo sa, ma stamattina è così. No, Arese. Ci scusi, Maria Gabriella. 02 il numero di telefono. Ci dica. Io ho 3.000 euro di obbligazione argentina del primo default. Sì. 3.000 euro che valgono ora 3.000 euro e prima erano un po' di più, oppure? No, il valore nominale, anche perché lo nostro Stato ci continua a far pagare il bollo su un conto titoli dove ci sono solo 3.000 euro. E non riesce peraltro a smontare magari questo deposito titoli? No, perché come faccio? Esatto. Io l'unica cosa che vorrei fare è restituire le obbligazioni all'Argentina, perché se è in queste condizioni così didastrate mi posso permettere di fargli questo regalo, perché non ne posso più, solo di pensare, certo. Sì, non però, avrò mai. Ma lei, Maria Gabriella, adesso a prescindere da questa un po' una piccola provocazione finale, non ha mai fatto nulla con questo denaro? Ha fatto il ricorso all'ICSID con la task force? Quindi non ha aderito alle due prime proposte del 2005? Io i debiti li pago per intero, se no appunto gliele ridò tutte e via. Maria Gabriella, restituisco al mittente. Grazie. Sì, appunto, io vorrei sapere questo: come posso restituire all'Argentina? Perché non voglio più continuarci a pagare. Musica per le orecchie di Alessandro Pedone. Cantone, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Nostro consulente finanziario, indipendente, uno dei preferiti perché peraltro è un grande sportivo anche. Sì, corre Alessandro, è vero? E poi l'abbiamo incontrato anche a Firenze. A Firenze con un altro nostro... Insomma, molta nostalgia. Dobbiamo invitarlo qua in studio. Sì, sono certa che magari avrebbe preferito parlare di corsa più che di nuovo di questa situazione, perché Alessandro Pedone, quante puntate in passato abbiamo fatto su questo argomento? Tante, forse tante. Anche troppe per i nostri gusti. Detto questo, ma volevo commentare con lei proprio intanto una questione sollevata da Maria Teresa, che per chi ha... titoli nel proprio dossier appunto depositato presso la banca di società fallite non se ne riesce neanche a liberare. Quante volte deve affrontare, sì, anche situazioni di questo tipo, Pedone? Purtroppo c'è poco da fare, perché diciamo la scelta è stata fatta inizialmente nel non aderire allo swap, all'offerta di transazione dell'Argentina, perché se adesso avesse quei titoli in mano, quei titoli potrebbero tranquillamente essere ceduti. Avendo fatto questa scelta e avendo fatto la scelta diciamo dell'azione giudiziaria, adesso l'unica opzione che ha è attendere gli esiti che sono biblici di questa iniziativa, anche se si pensa che secondo quanto ci riferisce la task force dovrebbero esserci a mesi delle informazioni su questa causa, ma in realtà qualunque sia poi l'esito della causa, il problema è far valere l'eventuale titolo che si ottiene dalla causa, quindi in pratica farsi pagare. Quindi io credo che le cose andranno ancora per molto tempo per le lunghe. Quindi infatti, purtroppo la nostra ascoltatrice non ha molte opzioni da scegliere, è una scelta che ha fatto a suo tempo, forse non l'ha fatta in maniera completamente consapevole, nel senso che non gli è stato fatto capire o non gli è stato spiegato sufficientemente quali erano le condizioni poi negli anni di questa impuntatura, dicendo io i debiti me li faccio pagare tutti e non un pezzettino, che in linea di principio è giustissimo, però poi in concreto succede questa cosa. Certo. C'è da dire che per fortuna quantomeno il bollo non è più in importo fisso ma in un importo percentuale, quindi se il valore nominale è minimo anche l'importo del bollo è abbastanza poco rilevante su quei 3.000 euro. Ma io, quindi la nostra ascoltatrice non sarà molto contenta della risposta del nostro ospite Alessandro Pedone, ma io vorrei chiedere alla dottoressa Segre, lei che è un'esperta di economia e mercati finanziari internazionali, secondo lei ci sono altre situazioni simili in giro nel mondo, paesi in difficoltà finanziarie magari che potrebbero non rimborsare le proprie obbligazioni? Vorrei proprio chiedere a lei, come chiedo spesso ai medici che intervengono a cuore denari, di darmi delle indicazioni, dei segnali. Che cosa deve metterci in allarme? Magari se abbiamo il dubbio di aver investito in un paese non affidabile, come facciamo a capirlo e a prevederlo? Ma allora, intanto in questi 13 anni è molto cambiato rispetto alle informazioni che gli investitori possono avere via internet in maniera molto trasparente e accessibile, quindi di fronte a un rendimento molto elevato solitamente si nasconde sempre un rischio che viene remunerato da questo rendimento e che spiega il perché ci sia questo tipo di ritorno. È un aspetto peraltro, mi scusi se la interrompo, che viene contestato anche ai risparmiatori che all'epoca investirono in Argentina obbligazioni che avevano un rendimento attorno al 7%, e molti dissero vabbè, con un rendimento di quel tipo che cosa volevi aspettarti di aver investito in un prodotto ad alto rischio? Infatti questa è la regola base. Detto questo, per rispondere alla domanda, ci sono paesi che rischiano la ristrutturazione? La risposta è proprio in quella classifica che avete citato dei paesi con maggiore esperienza nei default, che per il 90% sono tutti latinoamericani, e abbiamo una situazione del Venezuela che da tempo è molto vicina a una possibile ristrutturazione, ma che grazie alle entrate del petrolio per adesso è stata evitata. Però in termini di inflazione e dinamiche ricorda molto quella dell'Argentina di allora. Allora, ancora 800 24 00 24, numero verde per le vostre domande se volete intervenire sulla questione Argentina. Ancora una domanda alla dottoressa Segre, che poi salutiamo per concentrarci nella seconda parte del programma con Alessandro Pedone sulle prospettive per i risparmiatori che ancora hanno in mano questi prodotti, dei quali vorrebbero anche un po' liberarsene per chiudere un po' questa parentesi infelice della propria vita di risparmiatori. risparmiatori. Ma dottoressa Segre, due giorni fa la borsa argentina non aveva come dire quasi nessun sentore di quello che stava accadendo, era cresciuto molto e è arrivato ai massimi da 20 anni a questa parte. Com'è possibile che la borsa, con un paese che non riesce a rimborsare i propri obbligazionisti, festeggi in questo modo? Come va l'economia argentina? Ma allora, l'economia argentina ha un problema di fondo, che è quello di un disequilibrio creato da un'inflazione fuori controllo, perché al di là dei dati ufficiali si parla di addirittura di livelli del 40% di inflazione, e abbiamo una situazione in questo momento che, grazie agli accordi col Pariclub e con gli altri, diciamo, debitori, è sostanzialmente sostenibile per quelle che sono a livello delle riserve valutarie. Quindi è una situazione fragile che però si stava incamminando, grazie proprio anche a questi investimenti che erano arrivati sulle borse, sulle società argentine, a una possibilità di uscire da una situazione recessiva. Chiaramente questa situazione con i fondi americani rischia di peggiorare definitivamente la possibilità di uscire dalla recessione. Un'ultima considerazione: una via d'uscita che viene ben spiegata questa mattina anche dal Sole 24 Ore è che qualche altra grande banca, qualche banca d'affari molto importante, si faccia avanti per comprare tutto questo debito che ha in mano sostanzialmente questo duo di hedge fund, e quindi un po' si ripristini una situazione di teorica regolarità e normalità grazie a questo. JP Morgan, per esempio, starebbe trattando per comprare questi bond argentini. Secondo lei risolverebbe qualcosa questa eventuale soluzione? Ma senz'altro è un'ipotesi che è sul tavolo, su cui si sta discutendo, e vi sono diverse banche americane interessate. Secondo me è difficile che l'Elliott Management, arrivato sin qui, faccia un passo indietro, quindi quello è il rischio. Rivuole tutto e con gli interessi. Grazie a Claudia Segre. Adesso noi andiamo a sentire i mercati, poi torniamo ancora subito. Ancora penalizzati dalla situazione argentina, devo dire. Abbiamo già un'anticipazione, vedi che a cuore denari anticipiamo. Andiamo a sentire i mercati e poi torniamo insieme con il nostro ospite Alessandro Pedone, e poi andiamo un po' in bicicletta. Cuore e denari. Passeggiando in bicicletta accanto a te, pedalare senza fretta. E a fianco di chi pedalerete questo weekend? 800 24 00 24, che tipi di ciclista siete? Usate la bicicletta come mezzo di locomozione? Siete ciclisti amatoriali, di quelli che inforcano la bici e macinano chilometri, oppure siete ciclisti un po' improvvisati della domenica? In ogni caso vi farà piacere se avete fatto una scelta vantaggiosa sia per il vostro benessere che per il vostro portafoglio, e noi questi due aspetti li teniamo in grande considerazione a cuore denari. A dirlo è proprio un rapporto, pensate, realizzato dall'UNECE, che è la Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite, che per la prima volta traduce il modello di economia verde non solo in ricadute positive per la salute degli abitanti della Terra, ma anche un impatto favorevole in termini di occupazione e profitti economici. Insomma, se le grandi città europee andassero in bicicletta, come per dire a Copenaghen o ad Amsterdam, il settore delle due ruote ogni anno potrebbe creare, come detto, 76.000 nuovi posti di lavoro. Questa nuova mobilità salverebbe la vita almeno a 10.000 persone, grazie all'aumento dell'attività fisica, che sappiamo è protettivo e preventivo, ma soprattutto anche alla diminuzione degli incidenti stradali, del rumore e dello smog. Insomma, la bici, care amiche e cari amici, un mondo da scoprire. Noi lo faremo nella seconda parte della puntata. 800 24 00 24, con la bici andremo lontano dal tema di oggi. Un ascoltatore tra l'altro ci scrive a proposito, Debora, Giovanni: con questa trasmissione state raschiando il barile, non ci interessa più l'Argentina, pensiamo a casa nostra. E adesso commentiamo. Ci bene l'ascoltatore, perché evidentemente non avrà investito in titoli argentini, perché se avesse investito e poi l'Argentina non gli avesse restituito nulla di questo investimento, magari l'avrebbe pensato scriveva in maniera diversa. Un altro messaggino. Ecco qua. Allora, ma noi piace lo stesso, Giovanni. Ma certo, no, più che altro perché loro pensano che noi i messaggi cattivi non li leggiamo, invece altro che, anzi, c'è anche Raff che ci sta massacrando stamattina, adesso leggiamo pure lui. Intanto che ci siamo ritrovati a ballare questo tango amaro, appunto riepilogo ai nostri ascoltatori che stiamo riparlando di Argentina che cade in default per la seconda volta in 13 anni, anche se questo secondo default è strettamente legato a quello del dicembre del 2001, quello che fu veramente clamoroso, 81 miliardi di obbligazioni non rimborsate agli investitori su scala mondiale. Adesso ci interessa però capire cosa succede ai vecchi detentori italiani di Tango Bond, perché così fu ribattezzati. Allora, questa mattina stiamo facendoci aiutare. Volevi? No, mi stavo pensando che si usano anche dei termini particolari. Tango, vero? Bond, valzer, Emil, non lo so. Vabbè, adesso guarda che ancora non hai pensato al quizzone. Sono ancora adesso, qui in attesa. Adesso sto pensando, dovrei fare una pedalata. Io sì. Però a lungo, per farmi cosa sulla bicicletta. Allora, ritorniamo con il nostro Alessandro Pedone, consulente finanziario indipendente e responsabile dell'area risparmio dell'Associazione dei Consumatori ADUC. Allora, al centro delle notizie di oggi ci sono i bond coinvolti nella bancarotta del 2001. Questi bond sono stati ristrutturati, così si dice in gergo finanziario, una prima volta nel 2005 e a quella prima operazione aderirono in pochi su scala mondiale. Molto più successo ebbe la seconda operazione nel 2010. Peraltro ci fu il sottosegretario all'economia Lorenzino che si fece un gran giro in Europa, bene in Italia, l'abbiamo anche intervistato per Salvadanaio. Io, questa è una piccola parentesi di ricordo. Allora, ci ricorda Pedone, anche se è molto complicato ricordare effettivamente tutte quelle tecnicalità di quel periodo, come vennero ristrutturati i titoli che avevano in mano i 450.000 risparmiatori italiani? Sì, certo. Solo una piccola chiosa, perché sapete che io ci tengo anche agli aspetti della salute, della cosa eccetera, alla cosa delle biciclette di prima che diceva Nicoletta, va benissimo per il portafoglio, va benissimo per la salute e fa molto bene anche alla nostra terra, che è una cosa ugualmente importante. Quindi cuori, denari e anche la nostra terra. Guardi, con la puntata che abbiamo fatto ieri con le pesche nettarine ha colto assolutamente nel nostro cuore, Pedone. Andiamo avanti. Ok, quindi chiusa questa cosa, torniamo alle cose un po' noiose dei numeri, eccetera. Le due ristrutturazioni sostanzialmente furono identiche, anche perché prima la vostra ospite ricordava questa clausola che impone all'Argentina, imponeva per un periodo di tempo che scade fino alla fine di quest'anno, che le eventuali ristrutturazioni successive dei titoli non scambiati in queste offerte dovessero avere i benefici anche tutti coloro che avevano fatto con gli scambi. Quindi ciò significava che nel 2010, se l'Argentina avesse proposto delle condizioni migliori, avrebbe dovuto estendere queste migliori condizioni anche a quelli del 2005. Quali erano queste condizioni? Sostanzialmente si trattava di scambiare il titolo andato in default con o un titolo alla pari o un titolo discount, quindi c'era un'opzione, ma in realtà poi era un'opzione solo per i piccoli risparmiatori, perché oltre certi livelli non valeva più questa opzione, ma diciamo, senza entrare troppo nelle tecnicalità, in sostanza il nuovo titolo aveva scadenze molto più lunghe, sì, 2033 o 2038, sì, infatti, e cedole molto più basse, quindi il valore di questo titolo era circa il 30% del valore nominale, circa, perché poi ogni titolo aveva una storia un po' a sé stante in base alla scadenza. C'era anche il titolo la cui cedola era legata al PIL. Oltre a questa opzione c'era un titolo che non ha un valore, diciamo, nominale, ma ha un flusso cedolare, quindi ha un diritto ad un flusso cedolare determinato in funzione dell'andamento del prodotto interno lordo dell'Argentina. Che non era proprio andato male quello là, insomma, perché l'aveva accettato. E tutto sommato, diciamo, anche questo titolo, e tuttora questi titoli, infatti questo, allora io ho sentito in parte prima cosa avete detto con la vostra ospite, quindi non vorrei ripetere delle cose, ma è un default molto particolare, sì, perché non è un default legato al fatto che l'Argentina non ha soldi per pagare, è legato al fatto che attraverso questa causa materialmente vi viene impedito. poiché la gente lì in America, ed è soggetta alla normativa, alla legislazione americana, ha i soldi in mano dell'Argentina, certo, ma non ha pagato le cedole perché questa sentenza glielo impedisce. Quindi è un default molto particolare, tant'è che questi titoli tutt'oggi non è che siano crollati come crollarono quando fu dichiarato il default del 2011, no? Quindi è una situazione un po' particolare e consente anche ai detentori di questi titoli di fare un po' delle riflessioni. Esatto, cosa che adesso questi che hanno appunto questi titoli ristrutturati, che sono quelli praticamente coinvolti negli possibili scenari che si potranno manifestare a questo momento, sono circa 200-250 mila. Volevo solo ricordare prima con Nicoletta di andare alle domande degli ascoltatori che oggi il Sole 24 Ore dedica due intere pagine a questa vicenda. I colleghi Roberto Darin, Mauro Del Corno e Marco Lo Conte si occupano di tutti gli scenari possibili dal punto di vista macroeconomico per l'Argentina, come potrebbero evolversi a questo punto le trattative fra il governo e questi hedge fund e il giudice Griesa, e anche gli scenari possibili per i risparmiatori, fra cui abbiamo in linea Vito che ci chiama da Padova e Adriano da Verona. Vito, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ci dica. Allora, anch'io ho comprato 50.000 euro ormai tanto tempo fa nei bond argentini e poi sono dovuto andare a fare causa alla banca sperando di portare a casa qualcosa tramite un avvocato che era citato anche come uno dei pochi che era riuscito a ottenere qualcosa dalle banche. E chi era? Perché magari per educazione. Vabbè. Ecco, quindi perché mi ha fatto perdere tempo. Perché per negligenza sostanzialmente, perché dopo il vostro articolo era subissato di gente che voleva fare la stessa cosa che ho fatto io. La causa alla banca ha presupposti molto precisi, Vito, per poterla fare, quindi lei non è riuscito a ottenere nulla. Non sono riuscito, ma il peggio è che crea aspettative la cosa, quindi è quello che fa vivere male. Dopo, ragionando un po' meglio, anche con l'aiuto di un finalmente trovato un buon una persona che mi consigliasse in banca, giustamente ho aderito al 2010, quindi ho portato a casa qualcosina, ho aspettato le obbligazioni, le quotazioni delle obbligazioni salissero, le ho vendute, dei 50.000 ho portato a casa circa, tra un po' di interessi, un po' di acconti, cose varie, circa 35.000 euro, li ho reinvestiti in fondi con deviazione standard, cioè con la gestione della volatilità bassa, perché comunque il mio arco temporale era 2035-2033. Oggigiorno non sono pari, ma non manca molto, e siccome devo andare al 2035 ipoteticamente per riportare a casa i miei soldi, sono sicuro che ho recuperato tutto e anche gli interessi, cioè, di in ogni caso diciamo delle obbligazioni argentine non ha più nulla in portafoglio, Vito, se non ho capito non male, ho più, con questa strada che ha fatto. Il mio consiglio è di venderle, se è un terzo mercato si può vendere e non aspettare, certo, che Vito è caduto. Va bene. Pedone, la giurisprudenza è molto ricca di casi di successo per chi ha intentato l'azione legale nei confronti della banca, però è anche vero che quella è una strada, stata per molti una strada tortuosa, perché si doveva dimostrare che effettivamente l'investimento era stato fatto con modalità e non nella piena consapevolezza da parte del risparmiatore che aveva sottoscritto questi titoli, quindi situazioni molto complesse. È una situazione complessa, in realtà non solo la giurisprudenza ma la normativa, specialmente quella dell'epoca, è particolarmente favorevole al risparmiatore. Il problema grosso è che è la nostra macchina giudiziaria che è, come dire, una sorta di tritacarne, e prima di entrare in questo tritacarne è bene che chi faccia causa sia informato su cosa effettivamente succede, perché sono tempi biblici, ci sono tutta una serie di problematiche che ora ci porterebbero lontano. Molto spesso i presupposti giuridici c'erano, anche perché dice l'inversione dell'onere della prova, e quindi era la banca a dover dimostrare di aver fatto tutto correttamente e non l'investitore a non aver capito, eccetera eccetera, quindi ed effettivamente, specialmente sul caso Argentina, la giurisprudenza è veramente molto ampia a favore del risparmiatore, però non tutti i casi si hanno valutato, anche perché è un argomento complesso. Volevo fare una cosa a quello che ha detto il risparmiatore: riprendere i soldi nel 2038 non significa aver ripreso i propri soldi, perché se uno ha investito nel 2000 e riprende quanto aveva investito nel 2038, significa che ha subito una perdita catastrofica. Tutto il potere di acquisto, non solo. Catastrofica. Perché sono. Perché se tu hai investito 1.000 in quel periodo e ne riprendi 1.000 nel 2038, è evidente che non sono gli stessi 1.000, no? Allora, andiamo a sentire Adriano. Sì, poi volevo fare anche una considerazione sulla questione delle cause alle banche, ma anzi, me lo permette proprio Adriano, sì. Adriano. Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie, ci dica velocemente perché qua siamo proprio agli sgoccioli. Io sono uno di quei 40.000, penso, in Italia che invece hanno resistito, hanno fatto, diciamo, la causa, no? E quindi io ho ancora i miei bond, circa 10.000 euro. E niente, adesso però ho visto che sono schizzati in borsa in maniera veramente molto intensa e sto valutando appunto di venderli, perché oggi come oggi sono quotati, fatto 100, sono quotati 85, ecco, e quindi... No, ma mi scusi Adriano, ha fatto causa alla sua banca? No, ha fatto la causa con la task force, esatto, che sono 50.000 risparmiatori che sono con Nicola Stock, aspettano l'arbitrato internazionale, la conclusione, un'istruttoria lunghissima. Beppe Done, un commento su Adriano? Dov'è Alessandro Pedone? L'abbiamo perso? No, io vi sento. Eccolo qua, sì Alessandro, scusaci, ma era un attimo Gianmarco Ferronato che ci stava facendo uno scherzetto. 30 secondi per commento. No, mi sembra di capire che l'ascoltatore dicesse che fatto 100 i suoi titoli sono 85, ma non mi risulta proprio, credo che abbia confuso qualcosa, probabilmente quello dello swap alla pari che si riferisce a questo discount, ma è tutta un'altra cosa. Adriano, ci scriva in privato, magari valuteremo con un po' più di attenzione questa specifica situazione. Intanto Pedone, ultima raccomandazione finale prima dei saluti e prima di partire con la bicicletta, anzi a piedi per quello che la riguarda. Valutare se queste obbligazioni non sono più compatibili con il profilo, visto che comunque sono in qualche modo a prezzi ragionevoli rispetto allo swap iniziale, valutare insieme ad un consulente o comunque nel complesso del suo portafoglio l'opportunità di venderli adesso. In ogni caso non preoccuparsi eccessivamente, perché non è una situazione minimamente paragonabile a quella del 2011. Prevedo un'estate calda per Alessandro Pedone, che lui pensa di andare in ferie, ma i suoi terminali saranno incandescenti, perché adesso noi invitiamo tutti gli ascoltatori a scrivergli presso gli sportelli dell'ADUC di Firenze. Va bene, verrò in bicicletta a Milano. Bravissimo. Quindi lascia la corsa per la bicicletta? No, questo mai. Vado anche in bicicletta, anche. Però non vado a correre. Grazie ad Alessandro Pedone. Alessandro, a presto. Che facciamo? Andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, ma prima voglio leggerti il messaggio del nostro ascoltatore Stefano Da Lucca, che proprio a proposito di strade e non autostrade, dopo una battuta sul nostro ospite Pedone, che chiamandosi Pedone giustamente va a piedi in bicicletta, ma noi ci eravamo arrivate. Ci avverte che proprio ora la figlia è rimasta con la macchina in panne e lui si chiede perché non è uscita in bici, avrebbe fatto molto meglio e lui avrebbe risparmiato poverina, dei soldi. Dai, vabbè. Cuore e denari. Hai sentito Deborah? Bellezze, ma non occorre essere proprio degli Adoni per andare in bicicletta, le gambe belle e snelle. Sì. E insomma, le due ruote aiutano, non rendono belli, ma rendono felici, perché andando in bicicletta si liberano endorfine, i cosiddetti ormoni del benessere. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il dottor Stefano Aglieri, responsabile della riabilitazione cardiorespiratoria dell'Istituto Humanitas di Milano e soprattutto grande appassionato delle due ruote. Buongiorno a voi. Buongiorno dottore. Dottor Aglieri, il benessere corre sulle due ruote, allena molto efficacemente il nostro sistema cardiovascolare. Abbiamo detto che tira sull'umore, ma salva anche il cuore, è così? Sì, è vero. L'esercizio della pedalata da molti anni viene utilizzato naturalmente in ambito di programmi ben precisi e definiti e monitorati per curare, diciamo, cardiopatici che devono recuperare da un evento acuto come un infarto o un intervento cardiochirurgico, e si usa proprio tra le varie modalità di trattamento anche l'esercizio fisico, prevalentemente impiegando la pedalata piuttosto che il cammino, ma soprattutto la pedalata. Ma la pedalata ha anche un effetto preventivo? Assolutamente sì, infatti non è soltanto un discorso di recupero per queste persone da un evento acuto, ma è anche diciamo, il fornire a questi pazienti dei programmi prolungati nel tempo proprio per prevenire altre recidive di problematiche di questo genere, e anche in ambito di prevenzione primaria, quindi ancora prima di essersi ammalati, fare attività fisica di quel tipo è un'ottima situazione di prevenzione cardiocerebrovascolare. Ma dottore, noi l'abbiamo sentita da Bellezza in Bicicletta, le gambe tornite, belle, insomma, chi pedala guadagna anche a livello muscolare, si sfina ma tonifica. Assolutamente, sì, sono pienamente d'accordo, certamente pedalando sono soprattutto i muscoli della parte inferiore del corpo che vengono coinvolti, ed è una bellissima modalità di allenamento e di tonificazione di quei muscoli, di quella parte del corpo. Mi scusi, devo chiederle subito se pedalare aiuta a buttare giù la pancetta. Questa è una lei ride perché è un ciclista vero . E quindi magari questi problemi non ce l'ha, ma magari la pancetta ce l'ho anch'io. Ah, questa la rende molto più simpatico. E poi non c'è sport che tenga, c'è sempre quel centimetrino lì maledetto che proprio non se ne va neanche a fare gli addominali più accaniti. Lo so. E comunque no, è vero che anche facendo attività fisica, soprattutto il ciclismo piuttosto che altre attività, diciamo, di endurance, si può cercare di migliorare la propria linea, però non basta, bisogna anche essere poi accorti nell'alimentazione, questa è una regola assolutamente fondamentale. Dottor Aglieri, lei ha suggerito la bicicletta anche per il recupero e la riabilitazione di persone che hanno avuto un evento cardiaco acuto. La bicicletta funziona anche come riabilitazione e recupero per persone che hanno avuto problemi articolari o magari fratture, penso all'anca, penso a persone che hanno avuto un problema di ginocchio, insomma è più dolce il movimento in bicicletta e quindi può essere consigliato anche alle persone che devono fare i conti magari con i postumi di una frattura nel periodo della riabilitazione. Sì, sicuramente è uno degli strumenti che vengono utilizzati insieme ad altri, naturalmente a frattura consolidata, certo, o comunque in condizioni di stabilità, di raggiunta stabilità, è sicuramente un ottimo mezzo. Certo che bisogna fare i conti, insomma ci spostiamo, un ottimo mezzo di locomozione, ma come stanno anche scrivendo i nostri ascoltatori, dobbiamo anche fare i conti con tutto quello che c'è intorno alla bici. Le strade sono a rischio, ci scrive Maria Teresa Racomo, quindi dice è bella la bici, ma con le nostre strade dove andiamo effettivamente bisogna avere anche una, come dire, una condizione favorevole da questo punto di vista. Io stavo pensando a chi mi chiede se sono mai andata in bicicletta, che la mia infanzia, avendola fatta in paese collinare, in realtà di bici attorno a me non ne ho viste molte, al contrario invece ci sono molte città dove c'è un grande affollamento. Perché siete un po' pigretti andare su e ma giù. Ma tu vieni a Castelfidardo che poi ne parliamo, dai. Ecco, io vengo volentieri e vengo con il dottor Aglieri perché certo, è il vero... Che mi umilierà naturalmente. Il ciclista. Utilizzeremo un tandem. Ma ce ne sono ancora, sì, dottore? Sì. Anzi, mi sembra che stia tornando un po' di moda. Se ne vedono in giro, Allora noi vediamo se ne vede anche Maurizio che ci chiama da Padova. Buongiorno Maurizio, benvenuto. Allora, visto che non hai fatto il quizzettone, invito io gli ascoltatori, scattate la foto a un tandem e se ne vedete attorno a voi e mandiamo subito il librone di Cuore Denari. Bella, ti è piaciuta? Mi è piaciuta, ma perché la foto, il tandem mi incuriosisce tanto, perché tu pensi di non far fatica, invece bisogna pedalare in due. Maurizio, buongiorno. Pronto? Maurizio, buongiorno. Sento una voce di ritorno che sta parlando sopra. E chi sarà mai? Uno spiritello che si è impadronito delle nostre linee telefoniche? Adesso non so, proviamo a ripristinare la telefonata con Maurizio, Nicoletta oppure... Io direi di sì. Maurizio, bada sereno, la richiamiamo subito, 800 24 00 24, se invece siete voi a volere chiamare noi per raccontarci che tipo di ciclista siete, se usate la bici per mantenervi in forma, se usate la bici per spostarvi nelle vostre città, magari pianeggianti, non in collina, come suggerisce Debora, se andate in tandem, se invece preferite magari nelle vostre gite uscire da soli o in compagnia. 800 24 00 24 e Maurizio, voilà, l'abbiamo, è tornato, recupererò. Però poi dedichiamo un attimino l'attenzione a Ornella, perché ha paura di andare in bicicletta. Allora chiede, sulla cyclette è la stessa cosa? Dottore. Dunque, non è esattamente la stessa cosa, però piuttosto che niente... va bene anche quella. Chiaramente, diciamo che la cyclette non richiede il mantenimento di un equilibrio, è una situazione statica, quindi comunque è un modo per pedalare, per muovere le gambe, per allenare quindi e tonificare quei muscoli, ma naturalmente la situazione è, come si può ben capire, è ben diversa da quella di inforcare la nostra bicicletta e andare per le strade, possibilmente all'aria aperta in situazioni di poco traffico. A questo proposito, se posso inserirmi su quello che dicevate 5 minuti fa, un grosso problema secondo me degli stradali italiani è che mancano ancora veramente tanto le piste ciclabili, e sarebbe una gran bella cosa averne. Eh sì, qua a Milano non siamo, devo dire, messi molto bene. Ma mi sa che in generale un po' in tutta la nazione. No, e tra l'altro anche lì potremmo aprire l'altro famoso dibattito del, come dire, camminare vicino al percorso ciclabile, perché la Nicoletta lo sa, poverina, che tutte le volte che un attimo cominciano a suonare dietro e ti investono. Sì, una volta sola mi hanno investito. Ti hanno anche investito? Sì, anche Gianmarco già ride, però non c'è da ridere. No, per niente. Io camminavo in corso di Porta Romana nel marciapiede davanti a una pasticceria buonissima e una signora mi ha proprio presa su. Capisci? Naturalmente la colpa era mia, che passeggiavo sul marciapiede, certo. Perché ci sono dei ciclisti che non capiscono che il marciapiede sarebbe fatto per camminare. E a me va benissimo la convivenza tra ciclisti, che poverini non hanno le piste ciclabili anche sul marciapiede. Mi piacerebbe però un pochino più di educazione. Ci sono ciclisti molto educati come il dottor Aglieri e come gli ascoltatori di Radio 24, ma alcuni che si innervosiscono se trovano un pedone sul marciapiede, quindi lo spingono, e questo devo dire che a me dà molto fastidio. Dottor Aglieri, lei che ne dice? Sono d'accordo, perché la prima regola è rispettare il codice, e questo vale anche per i ciclisti. È inutile che ci lamentiamo noi ciclisti degli automobilisti indisciplinati o che non ci ignorano. Dobbiamo essere noi i primi comunque a rispettare le regole, perché altrimenti possiamo creare dei danni, soprattutto a noi stessi, perché siamo quelli che ci rimettiamo di più, ma comunque è fondamentale rispettare le regole del codice. Allora, un ascoltatore, Sandro da Udine, ci scrive: abolirei tutte le auto grosse, non adatte per le nostre strade, e costruirei più piste ciclabili che mancano. Sandro da Udine. Io poi dopo ti apro lo sportello internazionale di Cuore e Denari, perché ti leggo il messaggio di un'ascoltatrice che ci scrive da Vienna. Ah, ma allora andiamo, ci prepariamo, andiamo in bici fino là. Perfetto, siamo pronte. Cuore e Denari. Sotto questo sole è bello pedalare, sì, ma c'è da sudare. Sotto questo sole rossi col fiatone, neanche da bere. Sotto questo sole è bello pedalare, sì. Pedalate, chiamate 800 24 00 24. Bella rima baciata sportiva stamattina. E pedalate in tandem, scattate e inviateci la vostra foto su Facebook. Sì, esatto. Cosa, perché voglio proprio vedere, perché non ero convinta delle indicazioni che ci stava dando il dottor Aglieri, che invece ha confermato che il tandem sta ritornando di moda. Io però ancora non ne ho visti in circolazione, sono molto curiosa di capire se è vero o è una leggenda metropolitana, per cui fatemi vedere se vi siete avventurati addirittura quest'anno in una bella camminata pedalata su un tandem, magari con un amico, con i vostri figli, con un compagno, con una fidanzata o un fidanzato. Che ne so, andiamo io e te. Allora, guido io però, perché ovviamente mi devo mettere davanti perché sono un po' più grossa. 800 24 00 24, tandem, mountain bike, bici da corsa, quale bici avete scelto, quale bici utilizzate e perché avete scelto la bici, per spostarvi, per sport, per passione. E a proposito di spostamenti, se siete cicloturisti, chiamateci, raccontateci il viaggio che più vi è rimasto nel cuore, come vi state organizzando, se avete progettato di affrontare un nuovo viaggio, avete un itinerario da suggerire agli ascoltatori di Cuore recuperare denari, fatevi avanti. Ma dottor Aglieri, a proposito di strada, quanta strada dobbiamo fare, quante pedalate dobbiamo contare per vedere gli effetti di questo straordinario esercizio aerobico sul nostro fisico? E come cambiano i conti se invece che limitarci all'esercizio aerobico noi volessimo anche proprio tonificare i muscoli, scolpirli? Sì, dunque parliamo di livelli diversi a seconda degli obiettivi che vogliamo raggiungere, per certo. Cui se l'intenzione è quella di raggiungere una situazione di benessere senza fare grande fatica, ma semplicemente per tenersi in forma, è sufficiente pedalare anche per mezz'ora, tre quarti d'ora, 3-4 volte la settimana, senza la necessità di ritmi forzati, senza la necessità di guardare il contachilometri, cioè proprio passeggiate, sì. Questo già è un buon modo per tenersi in forma e tonificare la propria muscolatura. Se parliamo di pedalare per cercare di prevenire e curare il nostro sistema cerebro cardiovascolare, allora ci sono dei programmi precisi che prevedono delle sedute di pedalata o con la cicletta o con la bicicletta, che devono essere, se non quotidiane, almeno 4-5 volte la settimana e non devono durare meno di mezz'ora. Questo è quanto previsto dalle cosiddette linee guida scientifiche. Quindi sulle due ruote, per salvare cuore e cervello, per la prevenzione di eventi cardio e cerebrovascolari. Quindi mezz'ora ogni a giorni alterni. A che velocità, dottore? Ma diciamo che la velocità ognuno sceglie quella che gli è più consona, l'importante però è la continuità del gesto, cioè non fare 5 minuti e fermarsi, ma pedalare appunto mezz'ora, 40-45 minuti e farlo con continuità nel tempo. Questo è importante, non si può stare 10 giorni fermi, a meno che non ci siano delle controindicazioni importanti, altrimenti si perdono i vantaggi che si erano accumulati nelle settimane precedenti. Mi scusi, diverso, dottor Aglieri, vorrei questo aspetto ci interessa in modo particolare. A chi è suggerita questa sorta di palestra sulle due ruote con effetto preventivo e quindi per evitare, no, eventi cardio e cerebrovascolari? A persone che hanno avuto magari in casa, in famiglia, dei casi, a delle persone che hanno la pressione alta, sì. A persone. Proviamo a fare un identikit. Diamo questa. Esatto. Al di là dell'affermazione che mi permetto di fare, che è suggerito a tutti perché male non fa, sì. E quindi questo già è un punto di partenza, però sicuramente le persone che hanno più bisogno di fare prevenzione sono quelle che hanno un profilo di rischio più elevato e quindi, come diceva lei, chi ha già avuto in famiglia casi di infarto, chi ha problemi di colesterolo elevato, chi ha problemi di sovrappeso, chi tende ad avere la pressione arteriosa un po' alta, magari non deve prendere farmaci, però è lì al limite. Quindi chi ha un profilo, come definiamo noi in ambito scientifico, di rischio cardiovascolare medio-elevato, è sicuramente il candidato migliore a fare attività fisica, come suggerisce l'Organizzazione Mondiale della Sanità da anni, e tra le attività fisiche consigliate sicuramente il ciclismo, la pedalata, è una delle più di successo, delle più facili da attuare e delle più efficaci sui risultati che si ottengono. Andiamo allora ad occuparci invece del terzo profilo, cioè per allenare. Ci sono tanti ascoltatori di Cuore Denari che hanno proprio la passione, un po' come lei, dottor Aglieri, della bici, quindi si avventurano per chilometri e chilometri e fanno le salite, quella quasi vicina a casa tua, quella dove sono stata invitata a misurarmi. Esatto, saluto il mio amico Andrea che ci scrive: di pure Nicoletta di venirsi a fare a Castelfidardo la salita di Sant'Agostino, che è il mio quartiere, che è così, altro che farla con la bici. Va bene, dai, esatto. mi allenerò. Ecco, per allenarmi a fare la salita, e non voglio fare brutta figura, dottor Aglieri, inizio da domani, che cosa devo fare? Cosa bisogna fare? Ma è chiaro che qui l'argomento diventa un po' più difficile da affrontare, perché io non faccio il preparatore atletico e quindi è una mia esperienza personale. Sicuramente l'impegno è maggiore, su questo non ci sono dubbi, bisogna fare molti più chilometri, bisogna pedalare in certe situazioni a certe velocità e in altre situazioni ad altre velocità, bisogna farsi guidare dà, diciamo, indicazioni come la frequenza cardiaca di soglia, come la frequenza cardiaca massimale, quindi entra in gioco naturalmente l'uso di strumentazioni come il cardiofrequenzimetro o anche cose più raffinate, perché ormai nel mondo del ciclismo vediamo una tecnologia veramente molto avanzata. È chiaro che il percorso è diverso, che si richiede un allenamento più specifico, più impegnativo. Mediamente i ciclisti, lasciamo perdere quelli che fanno l'elite, che è tutto un altro discorso, cioè il mondo del professionismo, ma i cicloamatori, come potrei essere io o tanti altri, comunque tendenzialmente cercano di allenarsi tutti i giorni e si misurano i chilometri fatti nel corso dell'anno, quanti chilometri in salita, quanti chilometri fatti a certe velocità, a certe andature, quindi è un discorso decisamente più complesso e impegnativo. Sicuramente c'è da fare molta più fatica. Vabbè, Deborah, la farò però, prima o poi scatteremo la foto. Possiamo però sempre andare per fare una salita, non so di che salita si tratti, ma per fare una salita così è in città, non è necessario fare tutta questa fatica, si può fare, insomma, basta avere anche l'attrezzo. È un po' ripidina. Ecco, ma Deborah mi sottovaluta. Andiamo ad allenarci a Vienna, e come anticipavo prima, per cui salutiamo la nostra ascoltatrice Antonella, che ci scrive che è da ben il 74 che si è comprata la sua prima bicicletta, non ha ancora smesso di pedalare, la usa per andare a lavorare, 6 km di andata, 6 di ritorno, con grande beneficio per l'umore, perché lascia tutto lo stress mentre pedala. Ammetto di abitare in una città, Vienna, che ha una notevole rete di ciclabili, come invece non succede purtroppo in gran parte delle città italiane. E poi dopo una bella pedalata, una bella fettina di Sacher. Allora, altro che l'umore alle stelle. E a proposito di pedalate e di chilometri, ne ha mangiati tanti, come si dice, il nostro prossimo ospite, Alberto Fiorin, viaggiatore in bicicletta, autore di numerosi libri, l'ultimo dei quali è Parigi-Londra, L'Avenue Verte da Notre Dame al Big Ben, e di Ciclo Editore. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno Alberto. Lei come si definisce? Un ciclista viaggiatore? Sì, direi di sì, un ciclo viaggiatore. Un ciclo viaggiatore. La persona che piace, cui piace utilizzare lo strumento della bicicletta per girare il mondo e per vedere con occhi diversi, senza utilizzare possibilmente, ovviamente, la benzina, ma la forza pulita dei miei muscoli. La forza pulita dei suoi muscoli. Il miglior carburante che c'è, direi. 800. Beh, certo. Ricordo il nostro numero verde per gli ascoltatori che volessero avere anche dal nostro ospite, da Alberto Fiorin, dei consigli di viaggio, delle indicazioni, dei suggerimenti per la giusta attrezzatura per affrontare un viaggio così lungo. E in linea con noi abbiamo tanti ascoltatori e io direi di iniziare a sentire anche un po' le loro richieste, i loro racconti. Abbiamo chiesto di raccontarci, proprio perché sapevamo che ci avrebbe raggiunto Alberto Fiorin, anche i viaggi che sono rimasti nel cuore. Benissimo, allora, visto che abbiamo intanto noi sempre il nostro consueto atteggiamento di privilegiare le donne che sono in attesa rispetto agli uomini, ma salutiamo Mirko e Raimondo, però vogliamo sentire prima Marcella dalla provincia di Como, che è subito stata stimolata dalla discussione che ho intavolato sul tandem. Marcella, benvenuta. Salve, sono Marcella, benvenuta a voi. Sì, ci dica allora. Senta, allora, la mia cosa bellissima, io ho conosciuto mio marito sciando, sì, sempre nello sport, siamo insieme da 30 anni e dopo il nostro fatidico sì di matrimonio abbiamo preso un tandem che ci hanno prestato e abbiamo iniziato il nostro primo viaggio. Ed è stata un'esperienza bellissima. Dove diciamo siete andati? Siamo andati, no, non un grande viaggio, il viaggio iniziale, diciamo, verso Rinfresco, eccetera. Siamo andati poi in Indonesia e poi abbiamo sempre viaggiato in bicicletta. L'anno scorso ho fatto quasi 8.000 chilometri. 8.000 chilometri, sono tanti? Ne mancano 25 per fare 8.000 chilometri. Dai, diciamo, abboniamo, dai. Anche a lavorare, fino a Lugano vado, da Como. Però, è ben al... Vorrei commentare questi numeri insieme ai nostri due ospiti. Alberto? Sì. È abbastanza allenata nella nostra Marcella, 8.000 chilometri, no? Assolutamente sì, certo. È un viaggio, stiamo parlando di viaggi veramente importanti, viaggi che segnano una vita che ci si ricorderà appunto per tutta la vita. Ma ecco, ma chi mia figlia l'anno scorso con alcune amiche ha fatto il Giro dell'Olanda in bicicletta, tra l'altro viaggio che le è piaciuto gettonato. Tantissimo. Devo dire che l'anno prima aveva fatto il Cammino di Santiago e che lei comunque cammina molto. Secondo me non era tanto allenata con la bici, ma forse camminando poi alla fine non ha avuto problemi. Alberto, per affrontare un lungo viaggio, come bisogna prepararsi e quali sono le indicazioni proprio base, i consigli da seguire? Innanzitutto, ovviamente, il consiglio iniziale è quasi banale, quello di partire con un minimo di preparazione. Sì. Atletica, però è anche vero che questa si riesce a fare durante il viaggio, bisogna quindi scegliere anche diciamo una cadenza chilometrica giornaliera adeguata al proprio stato. Sì. di allenamento. Poi io direi la cosa più importante è essere sintetici nella scelta dei bagagli, perché se si fa un viaggio essenziali sintetici essenziali, perché alla fine in salita un grammo pesa un chilo e quindi bisogna fare delle scelte. Tra l'altro, allo stato attuale anche l'abbigliamento diciamo così tecnico è all'avanguardia, per cui i capi pesano poco, si possono lavare molto e asciugare molto velocemente, per cui io veramente consiglio di portare il meno possibile, perché dopo si rimpiange sempre. Cioè, ho visto gente partire con la cappelliera, con il phon, ecco. No, lasciateli a casa. Direi proprio di sì. Asciugate le chiome al vento. Sì, comunque c'è anche da dire che per fare un grande viaggio non è neppure necessario fare un viaggio grande, cioè lungo, cioè andare in un altro continente. Insomma, a volte proprio dietro casa si scoprono anche dei paradisi, dei luoghi che invece non si conoscevano perché si erano visti con occhi diversi, viaggiando in automobile, viaggiando appunto protetti all'interno di un abitacolo del proprio mezzo a motore. Quindi invece la bicicletta permette di vedere con occhi diversi il mondo, perché vuol dire non è necessario andare in Olanda, andare in Irlanda, andare in Sud America per trovare delle... Sai che anch'io l'ho detto a mia figlia, ma perché vai in Olanda? Non puoi stare qui, però sai, non lo so come, non mi ha... Diciamo sto scherzando, ma certo. C'è un problema, diciamo, ovviamente legato anche alla voglia alle infrastrutture, poi certo. L'Olanda e il, diciamo, la mitta d'Europa in genere, per cui anche la Germania, l'Austria. E poi hai l'idea che la bici ti possa portare lontano. E poi se sono vacanze, sono vacanze. Il fascino di arrivare distanti effettivamente è notevole. Infatti, non so, prima avevate citato questa guida alla pista ciclabile Parigi-Londra, devo dire la verità che è una pista ciclabile nuova, di recentissima istituzione, nel 2012 per le Olimpiadi di Londra è stata inaugurata e devo dire che il fascino è straordinario, se non altro proprio per il punto di partenza e il punto d'arrivo, cioè si parte da Notre Dame e si arriva sotto il Big Ben, insomma, per cui voglio dire tutto su una pista ciclabile, incredibile. Tutto su un percorso ciclabile protetto in gran parte, e quando non è pista ciclabile sono delle strade secondarie a scarsissimo traffico, per cui è una meraviglia. Questa proprio. Dovremmo farla. Questa dovremmo farla e ti chiederemo tutte le indicazioni. Sì, sono qui. A grazie, disposizione. Grazie. Se volete chiederle anche voi, scriveteci. Grazie ad Alberto Fiorin. Dottor Aglieri. Sì, presente. Sarebbe carino, Partiamo. Parigi. Lei ci segue, così se ci viene il coccolone. Salutare, anche se non lo conosco personalmente, vorrei salutare Alberto Fiorin perché è una persona che ammiro molto, ho letto alcuni suoi libri e condivido pienamente tutte le cose che dice e che pensa. Questo concetto del fascino della bicicletta è veramente, e lo capisce solo chi lo pratica il ciclismo, questo concetto. Ma senta, ma è possibile, mi scrive un ascoltatore, che questa bicicletta abbia tutti questi vantaggi? Purtroppo l'unica cosa che ci può capitare è cadere, e cadere dalla bicicletta cosa. Ci si può veramente fare male, per cui male sempre. E quindi assolutamente bisogna essere prudenti, stare attenti, usare l'attrezzatura giusta, il casco in testa. Il casco non ci rende ridicoli, ci può salvare la vita, quindi è una cosa che io predico sempre a tutti, anche amici con cui pedalo, e qualche volta qualcuno arriva senza casco e viene subito naturalmente rimproverato e ammonito perché non va bene. C'è un'altra modalità ancora per andare in bicicletta, molto praticata all'interno dei centri sportivi, dei centri fitness, e ce la spiega Raimondo da Sassari. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci a voi. Qua. Allora, buongiorno. Di cosa stiamo parlando? Bene, io così sentendo la vostra trasmissione, trovandola molto interessante, ho pensato di provare a arricchire i vostri i vostri contenuti, le vostre informazioni con lo spinning bike. Io sono un istruttore da diversi anni e volevo appunto suggerire per tutte quelle persone magari che non hanno occasione di avere una bicicletta, oppure che non hanno la compagnia per andare in bicicletta, perché molto spesso è la mancanza dell'amico deterrente. Sì certo, alle volte capita che per motivi climatici diventa difficile uscire in bicicletta, e allora potrebbe diventare una valida alternativa quella di praticare lo spinning. Lo spinning è una cosa diversa rispetto al ciclismo, che è che mantiene insomma tutto il suo fascino, però la caratteristica singolare dello spinning è che la musica vorrebbe prendere il posto del panorama, e quindi un bravo istruttore dovrebbe avere la capacità di creare quel trasporto musicale che ha la capacità di sostituirsi al panorama, e quindi far trovare a chi lo pratica delle sensazioni gradevoli, quasi come andare a fare una passeggiata. E Raimondo secondo me è un bravo insegnante. È un bravo insegnante, perché... sì, no, posso testimoniare che per esempio nella palestra dove vado io ci sono delle classi molto frequentate di spinning, e gli istruttori sono eccezionali, energici, e quindi danno una grande motivazione. Per me, per lo spinning, un solo problema, che è quello della sella. Io non ce la posso proprio fare, l'ho fatto tante volte, ma è per me dolorosa, cosa posso fare? Dottor Aglieri, le piace lo spinning? Sì, sono d'accordo con l'ascoltatore che era in linea, è diverso dal ciclismo, ma ci sono delle cose che accomunano, e mi piace, l'ho anche praticato in passato, ora non più perché per questioni di tempo, insomma, quindi non ce la faccio, però sì, è una cosa interessante, naturalmente anche lì il bravo istruttore è quello che sa, secondo il mio punto di vista, scegliere i ritmi giusti per le persone che ha di fronte, perché ci sono sedute di spinning molto molto impegnative, e altre invece, a seconda appunto di come viene condotta dall'istruttore, che sono molto più blande e più adatte quindi a persone che non sono così preparate a sostenere ritmi elevati. Andiamo a Raffaello, che ci chiama dalla provincia di La Spezia. Buongiorno Raffaello, benvenuto. Buona giornata. Io faccio lunghi giri in bicicletta con lo zaino sulle spalle. Il primo che misi 29 anni fa pesava 14, l'ultimo 4. Vedi. Ho curato molto l'alimentazione, ho imparato ad ascoltare me stesso, a migliorare, e ho fatto dei record miei personali su certe salite addirittura pochi mesi fa. Ho fatto il Gran Sasso, il Terminillo, il Crostis, il Grossglockner, il Gravia, il Mortirolo, il Ventoux, l'Isoard, il Tourmalet. Queste sono alcune delle salite che ho fatto nel triangolo che è compreso fra l'Aquila, l'Austria, la Svizzera e i Pirenei. E devo dire che secondo me quello che importa molto quando uno va in bicicletta è imparare gradualmente ad ascoltare se stesso, perché questo dà modo di migliorare tantissimo, e anche curare l'alimentazione, sì. Mettere il casco, avere l'abbigliamento giusto, non andare mai oltre l'80-85% di se stessi. sapersi ascoltare. E sapersi ascoltare è proprio un'esperienza per ritornare un po' a contatto con noi stessi, anche un viaggio quindi verso l'interiorità. Grazie a Raffaello per la sua bella esperienza che ha voluto raccontare a Cuore Denari. Dottor Aglieri, noi dobbiamo salutarla. Mi dica, saranno arrivate almeno 12 o 13 sms su biciclette prostata, vero? Non si rischia, tutto tranquillo, dottor Aglieri? Siamo sempre lì. Secondo me, se un uomo ha già un problema, allora magari potrebbero esserci delle controindicazioni, ma non pensiamo che la bicicletta sia una causa scatenante che possa indurre ad avere problemi di prostata, perché questo non è assolutamente vero. Ecco, allora così abbiamo risposto in blocco a tutti i messaggi dei nostri ascoltatori, che ringraziamo per essere stati con noi. Anche oggi, perché il primo agosto inizia un mese caldo. Sì, cara mia, devi dire qualcosa? Sì, io per almeno 15 giorni sarò con voi. Sì. E poi però nel corso di agosto ci risentiremo e poi torniamo. Benissimo. A settembre. Intanto la prossima settimana si devono accontentare solo della sottoscritta. Sarà una bellissima esperienza. Ma tu sarai lo stesso con noi, perché i temi di cuore non mancheranno, certamente. Okay. Ringraziamo il nostro ospite, il dottor Stefano Aglieri. Grazie per essere stato grazie con molte. Noi. Grazie, sempre un piacere. Buone pedalate a tutti e buone vacanze. grazie dottore. Grazie. Gianmarco Ferronato. Certo, Laura Vanossi, che rimane con me la settimana prossima. E cara mia, buone vacanze con tutto il mio cuore. Voi vi sentite lunedì. Cuore e denari.